Radio 24 Reportage. Nel ventre dell'Aquila, città in coma, di Raffaella Calandra. Si dice che l'Aquila è tutta sistemata, lei si faccia un bel giro qua, l'ha fatto, ed è tremendo. E lì ai quattro cantoni, lì sotto è pure chiuso. È doloroso vedere tutto questo, è doloroso. Come andare a vedere un morto. E come in una lunghissima visita di condoglianza, si cammina ora per il centro dell'Aquila, a passi lenti, sguardi bassi e voci sussurrate, perché se il 6 aprile del 2009 la scossa delle 3:32 uccise 309 persone, oggi, quattro anni dopo, è l'intera città a morire, lentamente, dell'abbandono dei tantissimi che vanno via, della rassegnazione di chi resta, muore di divisioni come di silenzio e macerie, il silenzio di una città fantasma dove pure i passi fanno rumore e le campane ora suonano rintocchi che nessuno ascolta. Come vede la città è ancora vuota, quindi siamo fiduciosi, siamo speranzosi, però insomma sono passati quattro anni e quattro anni sono anche tanti. Ma il problema secondo me non tanto sulle strutture, ma quello in cui soffriamo oggi è il problema proprio della socializzazione da parte dei ragazzi e da parte della gente. Non si ci incontra più. Si sente che la città è vuota, no? Perché questi suoni, i rintocchi della campana riecheggiano in un modo che altrove è diverso. Beh sì, prima erano rintocchi di campana col vociare delle persone, oggi sono soltanto rintocchi, se non qualche mezzo per lavori così residui che stanno facendo. È un lungo viaggio tra strade chiuse, finestre sbarrate e ponteggi ormai arrugginiti, il cammino attraverso quello che fu il centro storico dell'Aquila precipitato in un coma profondo. E come per andare a fare visita ad un proprio congiunto addormentato da quattro anni, qualche aquilano ogni tanto passa di proposito davanti a quelle che un tempo erano eleganti vetrine, affollati ristoranti, portoni di antiche case. Ora tutto tace, ora se è possibile è peggio di prima, denunciano alcune ragazze prima di infilarsi nell'unico bar aperto. Cioè la situazione è questa qui che vedi, quindi i locali sono pochi, non puoi fare altro fondamentalmente che bere. Ma in questi quattro anni in qualche modo è migliorato, è cambiato qualcosa, è rimasto tutto uguale? Possibile, è peggiorato, guarda, rispetto a due anni fa è anche peggiorata la situazione, perché mentre due anni fa qui tanti posti avevano riaperto con la storia dell'agibilità parziale o comunque il fatto che i lavori erano fermi, adesso che magari hanno iniziato a chiudere varie aree o strade perché hanno iniziato i lavori, chiaramente la situazione si è peggiorata. Non... Cioè sembra ancora di più una città vuota, posti, una sì. Città... Sì, tantissimo. Molti posti che vedi qua magari non riaprono per niente. Questo forse è il momento peggiore per l'Aquila, lo dicono tutti, è il momento in cui la città sta mollando dopo la reazione allo strazio, dopo la voglia di rinascita, dopo l'emergenza e la protesta, questo dopo quattro anni, quando restano 23.000 le persone fuori casa, è il momento in cui la rassegnazione sta prendendo il posto della rabbia e con scetticismo è stato accolto anche il programma dell'amministrazione che solo ora, dopo anni di commissariamento, ma pure di beghe politiche, tensioni e incertezze, stabilisce le tappe di una ricostruzione che solo per il decimo anniversario, nel 2019-15, o forse ancora più avanti, potrà dirsi terminata. Protesta chi vede che i propri lavori inizieranno solo nei prossimi anni. Contano quei pochi segnali di vita che arrivano dal corpo di questa città in coma. Rumori dei cantieri, di quei palazzi storici, isolati, che grazie alla sovrintendenza e ai beni artistici hanno potuto bypassare l'inferno di pratiche, autorizzazioni e finanziamenti e partire subito. Spicca nel grigio polveroso di questo centro storico che pare bombardato oggi più di quattro anni fa, spicca il rosso antico, forte, dell'unico palazzo quasi pronto per la consegna e non nasconde la sua soddisfazione ma anche un po' di disagio il direttore dei lavori, l'ingegnere Roberto Scimmia. È la prima casa del centro storico che è stata ristrutturata in quanto sta sull'asse centrale ed è un fabbricato vincolato, per cui il contributo l'abbiamo avuto direttamente dalla soprintendenza che ha curato l'istruttorio della pratica e l'ha approvata immediatamente in quanto è stato il primo progetto presentato nel centro storico. Okay, quindi questo ha permesso un po' di superare tutte le, diciamo, le difficoltà anche burocratiche che invece per il resto del centro storico tuttora restano. Certo, proprio per questo. In più, essendo un fabbricato isolato, non facente parte di un aggregato, per questo motivo l'istruttoria è stata fatta velocemente e abbiamo avuto anche velocemente il contributo. Quando dovrebbe essere terminata la casa? Un paio di mesi e abbiamo finito. Adesso stiamo facendo tutti quanti i lavori di restauro degli affreschi interni, delle porte, stiamo recuperando tutte quante quelle parti di decorazioni che fanno parte della parte storica dell'edificio. Grazie alla solidarietà del Kazakistan, una chiesa è finita e i restauri per altre dovrebbero partire a breve, come per la Basilica delle Anime Sante, che per essere già riaperta è stata però privata di fatto del suo abside, tuttora pericolante, come racconta Don Francesco. Non sono ancora partiti, però i fondi ci sono, dovrebbero iniziare a breve. In altre chiese sono partiti i lavori? Questa qui vicino a San Massimo, che San Giuseppe Artigiano, è stata restaurata. Quella col contributo del Kazakistan? Quella è stata restaurata. Sono in restaurazione quella di San Bernardino e dovrebbero iniziare per la fine dell'anno con le maggio. Adesso però la chiesa è quantomeno è aperta, sì, al culto. La celebriamo già in questa chiesa, anche se una parte della chiesa, oltre questo muro, è tutta da restaurare. Perché ecco, l'abside è stata chiusa, l'abside. Chiusa, sì, è stato chiuso e di là praticamente è zona rossa. Forse se un aspetto positivo questo terremoto lo ha avuto è stata l'assunzione, dopo un concorsone targato Formez, di 300 giovani a tempo indeterminato per la ricostruzione, prima in graduatoria Iole di Giampietro. Segnale, sì, questo aspetto è fortissimo, 300 posti di lavoro con queste tipologie contrattuali. Lei quanto è stata felice quando ha saputo di averlo vinto? Tanto, perché ancora un po' mi emoziono, perché comunque la gavetta nel pubblico l'avevo fatta, quindi sapere di avere un treno così importante mi ha talmente molto agitato, e ancora mi viene un po' il magone, perché di questi tempi, di un territorio così colpito, un posto indeterminato, non me lo sarei mai sognato. Lei immaginava già che casomai anche a causa del terremoto si sarebbe stata costretta a lasciare la sua città e la sua terra? Beh sì, perché io mi ero data un paio di anni ancora per cercare di migliorare e stabilizzare la mia situazione. Se non fosse stato così, la valigia è sempre stata pronta. Una valigia che invece molti suoi coetanei hanno già preso, e ancora di più dopo il terremoto. Alcuni dei 6.000 che hanno già lasciato la città per mancanza di prospettive, per l'assenza di lavoro, per un conto alla rovescia verso la normalità che di fatto non esiste. Lasciandosi alle spalle quartieri dormitori, centri commerciali divenuti punti di ritrovo per i più giovani, al posto di un centro svuotato di vita. E a loro, a questa assenza di futuro, pensa soprattutto Renza Bucci, che la notte di quel 6 aprile di 4 anni fa perse la figlia, il genero e la nipotina che proprio allora sarebbe dovuta nascere, la vittima numero 309. Per lei soprattutto ora vorrebbe lasciare gigli nelle pietre della ricostruzione, come si fece nel 700 in memoria delle vittime di un terremoto che anche allora fece strage, nella speranza che questa ricostruzione, che ancora non decolla, almeno stavolta sia davvero sicura. Io ce l'ho soprattutto con le costruzioni fatte male, violentate, quelle vecchie così del centro storico. Lei in questo centro storico ha perso una buona parte intera della sua famiglia, una famiglia intera, compresa una nipotina che mai nata e che è la 309. In 20 secondi, ecco, ti cambia la vita. Mia figlia è morta con tutta la famiglia per il crollo di una stanza dove c'erano stati fatti aperte delle porte nei muri maestri. A me questo nessuno me lo ha fatto dire, nessuno pagherà per questa cosa. Poi ci sono le case che ancora non erano finite di costruire o avevano 10, 15, 20 anni, quello è uno scandalo. In questi 4 anni ci sono anche già state delle prime sentenze per i crolli. C'è stata quella per la Commissione Grandi Rischi, che ha creato molte polemiche perché sono stati condannati appunto gli scienziati, c'è stata quella per la Casa dello Studente e anche per alcune altre palazzine che sono crollate. Come sta vivendo anche tutto questo iter giudiziario? Non do la colpa alla Commissione Grandi Rischi, non contesto la sentenza. Anche i crolli, quelli che sono stati condannati finora, uno è il papà di una vittima, A me queste condanne fanno male. Purtroppo sì, male. E nei processi per i terremoti spesso succede che chi viene condannato, come è successo a San Giuliano di Puglia per il crollo della scuola. Il sindaco che era il papà di una bambina. Però poi ci sono anche delle regole da seguire per evitare che questo si ripeta. Ecco, questo nella percezione di chi qui all'Aquila ha perso affetti così cari, oltre che si è visto stravolto l'intera vita. 4 anni dopo è chiaro? Adesso anche nella ricostruzione le persone comuni guardano molto all'estetica, no? Non so se si stanno chiedendo se la loro casa è sicura. Anche il centro storico viene riaperto, richiuso. Mi pare che una programmazione seria non c'è. Risistemiamole bene, quello che c'è da buttare giù, buttiamolo giù. Il terremoto continuerà a fare sempre. Io ho scoperto adesso, dopo il sisma, che nelle case antiche c'erano i gigli a conclusione delle catene che sorreggevano la ricostruzione del 1703, in ricordo delle vittime. Io non avevo mai alzato la testa a vedere questi gigli che forse sarebbero stato un monito, no? Allora lasciamo un monito anche adesso. Ecco, qui siamo vicino via Campo di Fossa. Questa era una zona dove non si sarebbe dovuto costruire, dove erano state buttate le macerie del 1703. È una zona che era chiamata maledetta. Qui vicino c'è anche la casa dello studente. Sì, quello è un edificio nuovo degli anni 60. Molti dicono dopo la commemorazione ci sarà anche la protesta per la ricostruzione che ancora stenta a partire. Ci dedichiamo a farci questa casa, no? Tutta la vita paghiamo mutui per decenni e sta pagando per una casa che non ha più ancora il mutuo. I problemi economici ci sono. Anche perché adesso si è ripreso a pagare le tasse. Sì, le bollette, io personalmente, ci hanno sospeso queste bollette per qualche mese che neanche te ne sei reso conto. Adesso ti ritrovi arretrati sul gas, la luce, non ci capisci più nulla a un certo punto. E quelle intercettazioni del prefetto o anche quelle del famoso costruttore che facevano finta di piangere o che ridevano rispetto agli affari che avrebbero fatto con la ricostruzione, a chi ha perso dei familiari, che effetto fanno? Pena per loro. Questa. Non ci fidiamo senz'altro di questi personaggi pubblici, perché ognuno di questi che ci ha messo la mano sulla spalla si è mostrato e poi esce fuori che è così, ma veramente forse non varrebbe neanche la pena fare queste cose di ricordo se ci deve essere questo sottofondo. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.